un tempo dove le rose accarezzavano i petali come piume il vento. C'era un tempo dove l'acqua riscaldava lo spirito nel cuore incenso. C'era un tempo dove il cielo abbracciava la terra anche quando era scuro. C'era un tempo dove il canto guariva le ferite dei rapaci di tutti i figli di questo mondo. È molto raro vivere, morire per nutrire l'animo, suonare insieme la ritmica del paradiso. Si manifesta con il suono dei cimbali del sole, con la magia delle tue parole. Le falci facciavano erbacce nei campi illuminati, e nel tuo sguardo era racchiuso il mondo intero e tutte le sue croci. C'era un tempo nel mare il miele, i profeti sapevano parlare, leggere in ogni cuore. C'era un tempo le piazze erano piene di fisarmoniche e si ballava al tramonto nelle balere. C'era un tempo che un solo tuo pensiero faceva fiorire alberi e grano, e ogni notte era un arcobaleno, ogni tuo respiro aveva il profumo del fieno. È molto raro vivere, morire per nutrire l'animo, suonare insieme la ritmica del paradiso. Si manifesta con il suono dei cimbali del sole, con la magia delle tue parole. Falci falciavano erbacce nei campi illuminati, e nel tuo sguardo era racchiuso il mondo intero e tutte le sue croci. Molto raro vivere, morire per nutrire l'animo, suonare insieme la ritmica del paradiso. Si manifesta con il suono dei cimbali del sole, con la magia delle tue parole. Le falci falciavano erbacce dei campi illuminati, e nel tuo sguardo era racchiuso il mondo intero e tutte le sue croci. È molto raro vivere, morire per nutrire l'animo, suonare insieme la ritmica del paradiso. Sì.